La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. In Belgio, dove da molto tempo c'è una situazione molto anomala, ovvero si tarda a formare un governo, c'è una senatrice, Marlène Timmerman, che ha fatto una proposta, ha lanciato l'idea di organizzare uno sciopero del sesso da parte delle donne per accelerare la formazione del governo. E come nell'opera teatrale di Aristofane, Lisistrata, dove le donne, stanche delle guerre dei loro mariti, fanno lo sciopero del sesso finché la guerra non sarà finita. Ma io devo dire che lo trovo un po' fuori tempo, questo sciopero del sesso. Mi è stata fatta tanti anni fa, nel 1999 esattamente, quando c'era la cosiddetta guerra contro la Jugoslavia, ovvero l'aggressione all'ex Jugoslavia, mi fu fatta una proposta molto più interessante, che voglio raccontare, dalla signora G, che non nominerò. La signora G è l'amata del quartiere. È stata una brava insegnante di greco. Attualmente, ancora adesso, esce solo in mezzo a due figli maschi, i quali vanno con una rigidità militare per la strada. E lei sembra una specie di sdegnosa Mata Hari, invecchiata in prigione, che invece che essere condotta davanti al portone d'esecuzione, viene condotta dal gelataio. Una volta mi guarda e mi ferma per strada. Devo dire, a me succede spesso, perché i matti mi riconoscono. Anche se non sono veramente dei loro, non sono proprio dei loro, perché io ho fatto il patto sociale. Quindi, insomma, mi sono staccata un po'. Però mi riconoscono lo stesso. Lei era sola ed era sfuggita per un istante a questi figli soldato. Eravamo appunto, come accennavo prima, nel pieno della guerra cosiddetta contro l'ex Jugoslavia. E subito, senza presentazioni, viene al sodo perché sapeva di essere libera per pochi minuti. E mi dice, ha visto signora, adesso la guerra è diventata umanitaria. Li bombardiamo per il loro bene, così imparano la democrazia. Guardi, io mi vergogno, perché prima ero io, rispondevo delle mie azioni. Adesso avevo nome e cognome. Adesso sono gli italiani, ovvero quelli che si sono uniti al massacro. Io ero stupita, ero incantata, perché la matta stava dicendo quello che avrei voluto sentire al telegiornale, invece delle solite bugie mielose e di sentire questa espressione intollerabile che era appunto guerra umanitaria. E mi disse, ma, e passa subito al tuo, dice, ma tu non ti vergogni? Io dico, sì, certo, e vado a tutte le manifestazioni. E lei mi ride in faccia, ma va, le manifestazioni, mi fai ridere, delle manifestazioni non gli frega niente a nessuno. Qui ci vuole altro, devi fare sciopero. Ma io dico, scusa, ma da sola? No, no, tutte noi donne. C'è una poesia di Pasolini dove fa dire ai bambini, sciopero, sciopero compagni, per i nostri doveri. Lo sapevo, amo molto quella poesia, è la postilla in versi alle lettere luterane, e dice, siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o criminali, o nevrotici. Vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. Non vogliamo già essere così sicuri. Non vogliamo essere subito già così senza sogni. Sciopero, sciopero, compagni, per i nostri doveri. Signor maestro, la smetta di trattarci come scemi, che bisogna sempre non offendere, non ferire, non toccare. Non ci aduli. Siamo uomini, signor maestro. E così la matta mi cita questi versi, sciopero, sciopero, compagni, per i nostri doveri. Va bene anche per le donne. Voi donne, come se lei, state sempre a fare i conti di quanti capi di Stato femmina ci sono. Al momento il nostro potere è un altro. Facciamo ogni genere di lavoro, siamo dappertutto. È vero che sono i più umili, ma sono quelli che servono di più. Contro la guerra noi dobbiamo fare uno sciopero generale. Mi scappò un sorriso, dissi, ma già, come in Lisistrata, no? Dove le donne si negano i maschi e li costringono alla pace. E lei? Ma va, ma figurati. Oggi uno sciopero del sesso non avrebbe nessun effetto. Quelli vanno coi trans o vanno a pagamento e sono più contenti di prima. No, no, uno sciopero vero. Pensa se incrociano le braccia le dottoresse, le vigilesse, le contadine, le maestre, le badanti, le suore, le scienziate, le puttane, le musiciste, le hostess. Noi fermiamo il mondo finché non lo piantano coi bombardamenti. E chi lo organizza? Io. Tu ci stai? Si accorse che i figli l'avevano avvistata e stavano venendo a passo di marcia dalla nostra parte. E di volata pronuncia l'ultima parte del suo comizio. Si mangia le sillabe, dice l'umanità, ma molto saggio, Detto veloce, ma molto saggio. L'umanità ci ha provato fin dall'inizio a distruggere la terra con tutti i suoi abitanti. Ma finora non c'era riuscita, perché non c'erano i mezzi. Abbiamo sempre devastato, inquinato, massacrato. Ma prima, ammazzare a mano 10.000 persone era un lavoraccio. Adesso si fa subito. La tecnologia moltiplica la stupidità dell'uomo. La scienza è al servizio della tortura, dello sterminio, del dolore. È l'onnipotenza dell'idiozia. Bisogna muoversi, ragazze. In quel momento i figli l'hanno agguantata. Si lasciò catturare docilmente, perché per quel giorno la sua missione era compiuta. Io con la signora G non ci ho mai più parlato. La fanno uscire sempre meno e quando mi vedono, visto che ero il suo unico contatto con l'esterno, quasi la prendono in braccio tutte e due e la portano via. Però, specialmente adesso, io non posso dimenticare la geniale ingenuità del suo piano. E ogni tanto mi viene in mente che forse più che ingenuo è molto intelligente. La guardiana del faro. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la scrittrice Lidia Ravera è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Questa è una ragazza, un'eterna ragazza che mi piace moltissimo. Una volta ti ricordi in un libro che era, si chiamava La donna è un animale stravagante davvero, ti avevo fatto consegnare 50 rose da Don Giovanni, che era rimasto intimidito dalla tua serietà, perché si permette di avere delle passioni. Si butta, rischia, sbaglia, cade, è viva. È capace di parlare bene di un nemico e male di un parente. Bene di chi se ne frega, male di chi si vendica subito. Sai, con questo mondo tutto in vendita è sorprendente. Un pensiero tenero su Lidia Ravera e uno severo. Tenero l'hai già fatto tu, ricordando le rose simboliche che mi hai mandato con quel libro, premiando la mia totale assenza di opportunismo. Diciamo che mi riconosco questa virtù, che attualmente ha un mercato assai ridotto, perché anzi gli opportunisti trionfano. Però, insomma, mi piace. E sì, ormai è come vendere l'anima al diavolo, non sa più che farsi. Sì, ma infatti certo. C'è un ingorgo dalle parti del mercato del diavolo. Pensiero severo, potrei fare l'alba di dopodomani, perché io sono molto severa con me stessa. E... Dine una, dai, che proprio il difetto tuo che ogni volta dici, accidenti, ma possibile sempre le stesse cose? Il mio malatissimo rapporto col tempo. Questa specie di ansia costante di usarlo, di spenderlo, di investirlo, di non perderlo, questa frase che ritorna sempre ossessivamente, perdo tempo, questa è la mia parte mercantile di cui non vado per niente fiera. Cerco di stivare in una giornata ma la maggior quantità possibile di lavoro, impegni, studio, cose, intraprese di ogni tipo, come in una valigia troppo stretta. Faccio casino. Dovrei imparare a oziare l'ozio e dei forti, e io nell'essere così iperattiva dichiaro la mia debolezza evidente. Sì, Lidia, però devo dire che l'ozio è anche degli immortali, perché se noi non avessimo una scadenza, che tra l'altro non sappiamo quando ci sarà, io credo che saremmo tutti molto più rilassati, saremmo molto meno avari, capisci cosa voglio dire, accumulatori, certo. Ecco, e questo fa parte un po' della io nostra... Io non ho mai fatto pace con la condizione umana, ma... diciamoci la verità. Ma neanch'io. C'è questo fatto che la vita è un film in cui il lieto fine non è previsto, ci fa stare tutti nervosi nell'inquadratura. Io purtroppo, ma è per questo che ho deciso di passare la vita a scrivere romanzi, altrimenti probabilmente avrei fatto un mestiere più dignitoso, tranquillo e redditizio. Invece proprio questo rapporto malvagio, malato col tempo. Perché moltiplichi? Perché ti moltiplichi coi romanzi? Moltiplico. Perché non tollero l'idea che vada a finire così, cioè questa impotenza con la quale bisognerebbe fare i conti, all'affacciarsi della maturità, uno dovrebbe averlo già risolto il problema, invece mi vede continuamente spiazzata, per cui rincorro il presente e invece sto sempre proiettata verso il futuro, e siccome invecchiando il futuro si restringe, la cosa si fa difficoltosa. La morte non si manda giù, non si manda giù proprio come interruzione. Mi diceva una giovane studiosa di arabo che mi descriveva il paradiso secondo Ibn Arabi. Non è come il nostro, noioso, coi mandolini, con questo tempo immobile. Cioè, il paradiso di Ibn Arabi è un perfezionamento continuo. Quindi, quando arrivi lì, è veramente un paradiso. Perché tutto quello che hai dovuto lasciare sarà una comprensione per l'eternità. Andrai sempre più avanti. Io purtroppo sono vigorosamente laica, atea e miscredente. Quindi penso che siamo polvere, polvere torneremo. E immagino proprio la polvere, materialmente, concretamente. Un teschio che si sbriciola e i vermi che se lo succhiano. Senti, c'è una cosa che mi fa molto ridere. Su internet c'è scritto una frase che hai detto tu. Nasco negli anni 50 a Torino. E già questo è abbastanza grave. Perché è grave nascere a Torino? Ce lo dici? È grave nascere negli anni 50, perché vuol dire averne parecchi. Ah no, io avevo capito nascere a Torino. E puoi anche nascere a Torino, perché Torino all'epoca era una città molto dura. O diventavi comunista o diventavi scemo, cioè non avevi molte altre scelte. O diventavi comunista o diventavi cattivo. Io sono diventata comunista, cioè avevo una maestra razzista che metteva le figlie dei laureati nei primi due banchi, eravamo in 4 su 32, e poi dietro c'erano le figlie degli impiegati, e poi c'erano due file di figlie degli operai, quella più brutta, più scomoda e più buia c'erano le figlie degli operai immigrati, e quella un po' meglio c'erano le figlie degli operai torinesi e piemontesi, che erano già un'aristocrazia. E in questa classe stratificata, piramidale, mia madre diceva: gli diamo le case e mettono, fanno crescere il basilico nel bidet, intendendo gli immigrati, certo, cioè i meridionali. Io nascondevo, per non essere sgridata, la mia enorme ammirazione per persone che riuscivano a far crescere piantine di basilico in un bidet, che mi sembrava un uso più che decoroso, quasi magico, di questo attrezzo del quale non avevo ben capito l'uso. Quindi mi ricordo il razzismo, mi ricordo la città monoculturale, la città Fiat, il senso della società divisa in classi così palpabile, così preciso. Mia madre che diceva: questi li puoi frequentare, queste bambine no, queste. Ma sai come sì. Sta succedendo adesso? Perché poi tutto questo sembra il medioevo dell'orrore, e poi poco a poco tutto questo sta ridiventando normale, ahimè. Cioè classismo e razzismo sono ormai cose di cui nessuno si stupisce. Scusa, mi è scappato. Ma hanno sdoganato le parti peggiori dell'essere umano, quindi continuando a carezzare nel pelo la natura umana nella sua bassezza, nel senso del pelo. Il contrario del cammino della civiltà, voglio dire, no? Il contrario del cammino della civiltà è il contrario della funzione della cultura, perché poi forse ridotti all'osso siamo tutti bestie, ma la cultura a questo serve. Ad allontanarci dalla natura, nel senso che usciamo di casa e non diamo un colpo di clava al vicino sfracellandogli la testa per pigliargli la macchina, per esempio, o per antipatia, ecco. Invece questo sta tornando tutto molto legittimo. Sta tornando, in più con questa grande glassa di populismo sopra, per cui non è più così chiaro, perché in fondo sono anche grata alla dura educazione sentimentale della Torino degli anni 50, perché ho capito molto presto da che parte stare, dove stava la solidarietà e dove stava un'altra cosa più brutta. Mi sono schierata, poi certo, quando ho capito cos'era il comunismo, giustamente, come tanti, mi sono spostata un po' più in là, però sono contenta di aver avuto questa formazione, di avere cominciato a fare politica a 14 anni e di avere sempre fatto attenzione, di avere sempre letto 3 o 4 giornali per cercare di capire che mi stava menando per il naso. Questa è stata la nostra giovinezza, e tutto sommato io sono contenta di essere stata giovane in quel periodo lì, anche se è stata dura. Non sono mai andata a ballare, infatti mi è rimasta la voglia adesso. Era molto più spiritosa di quanto credessi la frase, perché io me la riferivo a Torino, nasco negli anni 50 a Torino, già questo è abbastanza grave, invece tu ti riferivi alla data, molto più divertente. A tutte e due. a tutte e due. Dirò, tanto per fare una cosa da intervista normale, che ad aprile uscirà un libretto per il quale forse dovrete venire a portarmi le arance in carcere. Oh, meno male. Ma oppure vengo su un faro anch'io, chissà. Sì. Si chiama Piccoli Uomini ed è una serie di ritratti, devo dire, abbastanza velenosi, ogni tanto, non sempre, degli uomini del nostro club maschile della politica, guardati con lo sguardo che loro rifilano a noi dalla nascita all'ospizio, cioè essere giudicati sulla bellezza, sull'età e sul sex appeal. Io ho provato a fare agli uomini, a fargli passare lo stesso trattamento a cui loro hanno sottoposto noi per tutti questi anni. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho 39 anni. Sono l'unica delle mie amiche che non abbia avuto figli. Siamo un gruppo che si frequenta dai tempi del liceo, una fotocopia delle casalinghe disperate, ma ci teniamo allegre fra noi. Anzi, ci tenevamo, perché qualcosa ci sta allontanando. Parlano solo dei loro figli, ha detto e ha fatto. Si vantano e con battute più o meno felici mi fanno capire che io non so di cosa parlino. Chi non li ha non può capire. Insomma, mi fanno sentire diversa, una specie di minus habens. Sono donne laureate, colte, intelligenti. Ma perché se una non è nata chioccia si deve giustificare? Nella prima gioventù pensavo che sarei diventata madre, ma poi col tempo mi è passata. Che devo fare? Le mando dove si meritano? Ma sono le mie amiche, mi mancherebbero. Betty. Ma sai, Betty, fare un figlio può essere per una donna una gran bella esperienza. Però non è mica obbligatorio, non c'è soltanto quello. Si enfatizza molto la maternità, qualche volta anch'io. Comunque vedi le interviste di donne famose che hanno dedicato tutta la vita alla carriera, che hanno sgomitato come delle locomotive, poi fanno un figlio e pare che fino a quel momento non siano mai vissute. Ora, non parlo della Nannini, di cui si parla fin troppo, che poi è un artista totale e sicuramente ogni sua esperienza è totale, dalla musica a mangiare un gelato a fare un figlio, sono convinta. Però tutti questi qua sembra che sia la prima volta nel mondo. Che poi è veramente l'intima sensazione che si ha, però non bisognerebbe suonare le trombe come fanno le tue amiche. Chi suona la tromba lascia il sospetto che questi figli servano solo a riempire un irriempibile vuoto. E poi ci cascano tutti, eh. Giorni fa Gianluca Nicoletti ha fatto risentire quel memorabile di dialogo di Moretti in cui lui non riesce a parlare al telefono con gli amici perché è diventato il regno dei bambini, deve fare la pecorella, l'asinello, e i bambini rispondono al telefono, lo tengono in ostaggio finché non ha giocato con loro, non passano i genitori, i quali stanno lì annichiliti dal miracolo della loro discendenza. E poi però pure Moretti ci è cascato, perché quando ha fatto un figlio ci ha fatto pure un film dove si era ridotto come i genitori dei bambini telefonanti. Ora, per chiudere la bocca alle tue amiche, io le mollerei comunque, perché se sono delle disgraziate, se queste qua non riescono a trattarti alla pari perché non c'hai un figlio, sono veramente, vabbè, ma a parte il giudizio sulle tue amiche che te lo farai da sola, però per calmarli un po' ti consiglio di leggere un articolo di Natalia Aspesi apparso sulla Repubblica, che proprio si ribella a questa, a quest'onni bambinismo e a questa vanteria sfrenata che ha preso i moderni sul fatto della discendenza. E scrive Natalia Aspesi: non sono più soltanto mamme e babbi VIP a sventolare i loro piccini, anche infanti, sui giornali per famiglie, ma pure i nonni, come il nostro premier che, lucidato in modo da sembrare un ventenne, si fa vedere con tutta la famiglia. In questo fiorire di baby alta moda, psichiatri infantili, videogiochi, tate Matildi, chi non ha figli torna ad essere un anarchico, un poveretto, un fortunato, uno stravagante, un asociale, in ogni caso un diverso. Soprattutto se di sesso femminile, perché se una donna non è mamma, non è una vera donna. Sembra il Medioevo, ma questo lo aggiungo io, invece è oggi. Infatti una donna senza figli deve rendere conto ancora adesso di questa sua anomalia. Insomma, continua a essere una curiosità da sondaggio o da dolente intervista. Che rispondere? È stato il caso? Così la mia vita non ha senso? I bimbi mi fanno orrore? Sarei stata una mamma perfetta ma non ho trovato il giusto padre? Oppure sono già la mamma dei miei libri? Insomma, viene in mente il romanzo di Ogni passione spenta di Vita Sackville West, in cui l'ottantenne signora rimasta vedova si accorge che i suoi figli, ormai vecchi, le sono estranei e antipatici. Oppure un altro bel libro, Le parole tra noi leggere, di Lalla Romano, che già dal primo capitolo fa passare la voglia di averne. Il problema non è tanto mettere al mondo dei figli, quanto saperli crescere. La guardiana del faro. Забудешь первый праздник и позднюю утрату, когда луны колеса затренькают по тракту. Questo lo ha scritto il beato Raimondo da Capua, prima confessore e poi biografo di Santa Caterina da Siena. Aveva una grandissima memoria e scriveva ogni cosa che lei diceva. Mentre mi diceva sottovoce, ma forte con l'anima, «Io voglio il corpo di Nostro Signore», ecco, le apparve il Salvatore, disposto ad accontentarla, e accostò la bocca della Vergine alla cicatrice del costato, ed essa beve lungamente i fiumi di vita alla fonte del petto sacrosanto. Però non era sempre così facile questo rapporto sensualmente divino con Gesù. A volte, come un amante accorto, Gesù la faceva soffrire nell'attesa. E questa è Caterina che parla. Sapete, o padre, cosa fece quel giorno il Signore dell'anima mia? Fece come una mamma col figliolino che ama di più. Gli mostra il seno, ma lo tiene lontano da sé finché pianga. Appena comincia a piangere, ride beata e se lo stringe al petto. E baciandolo, gli presenta allegramente e abbondantemente la poppa. Così fece a me il Signore. Quel giorno mi mostrò il suo sacratissimo costato ed io piangevo dal gran desiderio di accostarvi le labbra. Dopo che ebbe alquanto riso del mio pianto, mi venne incontro, strinse l'anima mia fra le sue braccia e accostò la mia bocca alla sua piaga. Allora l'anima mia entrò tutta in quella ferita e vi ritrovò tanta dolcezza che a meraviglia il mio cuore non si sia spezzato per eccesso d'amore. Io non finirò mai di rimpiangere l'innocenza di questi tempi pre-freudiani, in cui si poteva dire qualsiasi cosa senza farsene un problema. Vi racconterò di questa ragazza scalza e sudata, questa anoressica entusiasta, questa bambina. Poi mi pare di sentire una vocina, no? Ma la vocina? Ma è lei? Sono io, Caterina. Grulla, tu non racconti un bel nulla. Mi racconto da sola. Se ti lascio fare, mi farei passare per una di quelle sante fanatiche che non sapevano ridere, prese da una sensualità lugubre, tutta nera. Invece no, io sono figlia di tintori, mi piacciono i colori. La vita col Redentore fu tutta una festa. Pускай глядит с порога красотка увядая, та гордая, та злая, та злая, та святая. Sono nata a Siena nel 1347, ventitreesima figlia di Jacopo Benincasa e di Monna Lapa. Io e la mia gemella eravamo così patite che il primo miracolo fu quello di restare in vita. Quando mi fidanzai con Gesù avevo 6 anni. Mi apparve su un baldacchino d'oro e sorrideva come se fosse un bimbo anche lui. Veniva a trovarmi di nascosto nella mia cameretta. Mi regalava gli anelli. E i miracoli erano adatti alla mia età. Mi faceva salire le scale volando e in casa si spaventavano. Dicevano: quanto è pia questa bimba, non si trastulla mai, prega sempre. Ma io mi trastullavo con Gesù. Prima che sposo mi fu compagno di giochi. Eppure, nonostante la sua protezione, non sfuggivo del tutto alle insidie di Malatasca, ovvero il demonio, il gran geloso. Ma la tasca ci schiantava di rabbia che io e il Redentore si stesse tanto bene assieme e le inventava tutte per dividerci. Mi faceva pena. Era come un citto non invitato alla festa che cerca di rovinarla a chi ci è andato. Metteva tutti in sospetto su di me, come se la mia santità fosse effetto del maligno, cioè sua. 20 anni dopo, per colpa sua sempre, si parlò addirittura dei miei scandoli. Dicevano che avevo lasciato la famiglia per essere più libera con gli uomini. Per 2 volte il capitolo si riunì a Siena per interrogarmi, ma io confusi i miei giudici. Anoressia la chiamate voi, che brutta parola. Io volevo solo digiunare perché ero tutta piena di Dio e nel mio stomaco non c'era posto per altro. A casa mi obbligavano a mangiare. Io mi mettevo a tavola con la famiglia e poi mi liberavo, rigettando. Era la disperazione della mia mamma, ma anche lei era la mia. Mi voleva levare la gioia di flagellarmi con le cinghie, con le catene, coi cardi. Quando mi scopriva, si metteva a urlare e a strapparsi i capelli. «Ah, figlia mia, così ti ammazzi!» Ma no, resuscitavo invece. Torturandomi, gioivo nel Signore. Sentivo il suo corpo. «Sto жар ее перин, давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим». Avevo la smania di vestirmi da uomo. Come Eufrosina, la Vergine d'Alessandria, che si finse ragazzo per essere ammessa in un convento di monaci e così, a tutti rimanendo ignoto il suo sesso, servire umilmente il Signore. Ma la tasca però si lavorava la mia mamma e le metteva in testa che bisognava darmi marito. Così lei si dava attorno per trovare un genero di riguardo. Non sapeva che m'ero promessa vergine al Signore. Un giorno che insisteva, non ne potevo più. Piglio le forbici e zac, mi taglio le trecce. Ma lei non si arrese e mi mise alle costole Bonaventura, la mia sorella, per insegnarmi la civetteria e come ci si agghinda per pigliare i merli. Bonaventura era molto tagliata per questo mestiere. Ma la mamma, sono proprio diavoli incarnati queste brave donne quando si mettono in testa ad agire per il bene delle figlie. Ma il Signore a quei tempi andava per le spicce e così chiamò a sé Bonaventura. Di lì a poco, infatti, Bonaventura moriva improvvisamente. Non mi lasciavano servire Dio alla mia maniera. A 13 anni chiesi di farmi monaca. Per fortuna ero brutta, se no così giovane alle mantellate non mi ci pigliavano. Gesù mi aiutò. Mi fece anche coprire di foruncoli, ciò che mi rese ancora più gradita alle buone suore. Presi il velo. Finì il fidanzamento. Cominciarono le nozze. La prima notte mi apparve il mio sposo. Con le sue mani mi fece indossare una veste color sangue, fatta a misura del mio corpo virginale, e disse: «Prendi questa veste come pegno della veste di luce che ti darò in paradiso». Poi come anello mi porse una corona di spine. Io gliela tolsi dalle mani quasi con furia e me la calcai sul capo con tanto ardore che le spine lo perforarono da ogni parte. E gli dissi: «È tanto il fuoco dell'anima mia che la fiamma materiale mi pare che rinfreschi piuttosto che riscaldi. Mi parve che l'anima mia penetrasse nel Signore e il Signore in lei, come il pesce entra nell'acqua e tutta lo circonda». Disse ancora: «Allunga la mano». Gliela tesi ed egli mise fuori un chiodo, me lo puntò nel mezzo della palma e lo pigiò tanto forte che la trapassò, mentre io spasimavo nella grazia. Жена говорится, найдет себе другого, какого никакого, как ты недорогого. Ma la tasca moriva d'invidia sempre di più. E mi sentesta alle suore che io non ero vergine. Quelle che sentivano rumori e perfin risate nella mia cella ci credettero. Era un pomeriggio d'estate. Fui denudata davanti alle sorelle. Una di loro, intinto il dito nell'acqua benedetta, fece la prova e confermò che ero intatta. Ma la tasca ci restò con un palmo di naso. Ma il sommo atto d'amore il mio eterno sposo doveva ancora compierlo. Una notte mi aprì il petto e, presomi il cuore, lo mise nel petto suo. Mi accorsi allora che teneva nelle sue sante mani un altro cuore, vermiglio e splendente. Tremante, caddi a terra. Il Signore mi aprì nuovamente il petto e vi introdusse il suo cuore dicendo: «Ho preso il tuo e ti do il mio». Allora sentì l'anima mia liquefarsi per la veemenza dell'amore divino e ripetevo: Signore, hai ferito il mio cuore. Signore, hai ferito il mio cuore. Peccato se fatto tardi, lui m'aspetta. Un'altra volta vi racconto come andai dal Papa ad Avignone e riuscii a riportarlo a Roma. Era una ragazzina a capo di una banda di dotti frati, che però erano anche loro dei giovanetti. C'era Anastagio di Montealtino, Giacomo del Pecora, Neri di Landoccia dei Pagliaresi. Li chiamavano i Caterinati. Succedeva sempre così. Si innamoravano e si facevano frati. S'andò a cavallo. Davamo di sprone cantando il Magnificat. Morì dicendo sangue, sangue, sangue. Non mi bastava mai. Mi sono saziata solo in paradiso. Questo brano è tratto da un libro che sto ancora scrivendo, che si intitola Amore il mese più crudele, che un giorno uscirà con Nottetempo. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Tutto avrei potuto perdonarle, ma non questo. Mi ha confessato che circa 10 anni fa, 7 prima di conoscermi, in un momento di difficoltà è andata con un uomo per soldi. Qualsiasi sporcizia, qualsiasi bassezza, ma questo no. Mi fa sentire sudicio. E anche il nostro amore mi sembra orrendo. No, guarda che tu non le devi perdonare niente. Perché la sua vita con te comincia dal momento che vi siete incontrati. Perché ti dovrebbe rendere conto del prima? Tu pensi troppo al sudiciume per essere pulito. Hai una visione schifosa. Io spero che lei ti lasci. Hai ripagato molto male la sua confidenza. E tu le hai confessato tutto? Siete amanti, non giudici. Dice Marina Svetaeva, l'amore è legame, non inchiesta. La guardiana del faro. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Oh, ecco la Maria. Sono qua. Racconta. Ma ho un po' di nervoso stamattina perché dovrei andare a comprare delle cose e non ho tanti soldi con me perché li ho spesi tutti per quel cretino che avevo come amante qualche anno fa. E allora li ho spesi male, proprio mi vengono sempre in mente. Ricordami quella storia che mi avevi già detto. Era quello del supermercato, sì. Era quello che quando andavamo a fare la spesa pagavo io, il conto erano 130 euro, io davo 150 euro e lui 20 euro se li metteva in tasca. Un anno a Natale ero a casa sua, siamo andati in una casa d'aste e io ho comprato per lui un bel quadro come regalo di Natale, sono tutto contento, ho preso il quadro, l'ha portato a casa e poi mi ha detto: ma guarda come sta bene, adesso lo incarto così quando arriva mia sorella glielo regalo. Tu che hai detto? Io un po' ero troppo innamorata e non mi attentavo a dirglielo e un po' volevo anche vedere quanto faceva schifo lui. Una volta eravamo in albergo, io avevo con me un po' di soldi, una busta con un po' di soldi. Allora lui si è vestito, ha preso la busta e si è messo la busta in tasca e ha detto: adesso oggi andiamo a comprarci dei vestiti per me. Allora siamo andati fuori e con quei soldi lì ha comprato 2 vestiti bellissimi, tutto elegante, così poi è partito con la busta, partito per l'aereo, è partito con la busta dei miei soldi che erano rimasti, che ne saranno rimasti, c'erano forse 2000 euro ancora. Ha preso i soldi e è andato via, è partito. Quando è arrivato a casa sua, quindi c'era un volo di mezzo, quindi non erano più in pericolo i soldi, ormai ce li aveva lui. Mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, mi sono dimenticato i tuoi soldi nella giacca, te li ridò la prossima volta. Quando è tornato mi ha portato i soldi, ma mancava 500 euro e mi ha detto: guarda, manca 500 euro perché è venuta la mia ex fidanzata a casa che aveva bisogno di soldi, allora li ho dati a lei. E tu cosa hai detto? Anche di niente. Poi lui a un certo punto aveva deciso di andare a fare un viaggio. E visto che lui era musicista e così, a volte guadagnava, a volte no, io quando siamo là pago tutto io, però il biglietto pagalo tu, anche perché mi dava almeno l'idea che lui venisse volentieri. Perché era stabilito che pagassi tutto tu, ma perché c'era una tale differenza economica tra te e lui? Un pochino sì, adesso non c'era una tale differenza, però visto che lui tirava fuori i soldi non tanto volentieri, come dicono a Modena, si metteva le mani in tasca col gomito. E in agenzia lui ci siamo informati, ho detto: sì, guarda, c'è un biglietto allora da Francoforte, perché eravamo lì, c'è un biglietto da Francoforte che costa 600 euro e poi c'è un altro biglietto, invece però era l'ultimo rimasto, un altro biglietto che ne costa 1200. Allora lui si è girato e mi ha detto: beh, facciamo così, io compro quello da 600 e tu prendi quello da 1200. Io ho detto: ma no, scusa, ma perché? Cioè, no. Allora mi sono ribellata. Ah, oh, bravo, ti sei ribellata e non ci sei andata? No, no, io sono partita da sola. Sono partita da sola e sono stata bene. E da lì ha cominciato a scricchiolare questa... E da lì sì. Sono diventata io sempre poi più cattiva, dopo gli ho chiesto anche indietro i soldi dei 500 euro che aveva prestato la fidanzata, mi è stata perfida, portami i soldi altrimenti non ti voglio vedere. E ti manca questo l'estofante? Maltrattamento, sì, un po' mi manca, purtroppo un po' mi manca. L'avarizia, l'avarizia. In questo libro che è appena uscito con... Leo S. Olsky, editore, Firenze, e che si chiama Un paradiso in terra, il hammam e l'economia della salvezza, che è sui bagni nell'Islam, a cura di Rosita Damora e Samuela Pagani, c'è un capitolo curato appunto da Samuela Pagani che parla dell'avarizia. Verso il IX secolo, nell'Iran orientale, un avaro così ragionava. Sono già 6 mesi che medito di far lavare questo vestito, ma ancora non ci vedo chiaro. Qualche volta penso, il vestito sudicio corrode il corpo come la ruggine mangia il ferro, e quando la stoffa si bagna di sudore e poi si asciuga, la porcheria vi si accumula sopra e si incolla, rode la trama e brucia l'ordito, senza contare il tanfo e lo squallido aspetto. Quando mi assalgono tutte queste idee, penso sul serio a far lavare il vestito. Ma, mentre rifletto, mi si presentano obiezioni che mi sembrano ragionevoli e solide. Mettiamo che il vestito sia stato lavato. Quando me lo rimetto, bello, bianco, asciutto, spiccano per contrasto la sporcizia del mio corpo e i miei capelli ispidi. Prima, infatti, la mia persona e il mio vestito armonizzavano. Ora c'è stonatura e quel che una volta non si vedeva salta agli occhi. Tutto questo mi obbliga ad andare al bagno pubblico. Se ci vado, sono spese grosse, senza parlare del pericolo che nel bagno mi rubino il vestito. Io poi ho una moglie giovane e bella. Quando mi vedrà tutto bello, con la testa lavata e il vestito pulito, si vorrà far bella anche lei. Si metterà l'abito buono e mi tenterà. Sono un maschio, e il maschio eccitato, si sa, nessuno lo ferma più. Se la voglio possedere, lei, approfittando del mio desiderio, mi domanderà dei regali. Dopo sarà necessario scaldare l'acqua per la purificazione, e anche questo costa. E la cosa peggiore di tutte sarebbe che restasse incinta. Allora ci vorrebbe la balia e comincerebbero spese interminabili. No, meglio lasciare il vestito com'è. Visto che siamo nei dintorni dell'8 marzo, voglio leggere un brano che scrissi da giovane e che si intitolava «Voglio diventare una bella vecchia». La mania di sconciarsi per nascondere l'età non è certo di oggi. Anche ai miei tempi si vedevano in giro un mucchio di mostri. Già ai miei tempi cominciava questa pressione sociale, non violenta come adesso, ma c'era molto forte. Questo fatto di negare la vecchiaia, che la vecchiaia delle donne fosse una specie di delitto. E quindi mi ricordo, e vorrei leggere un pezzo che scrissi allora, perché... Allora rispondevo sempre alle lettere d'amore e una sul settimanale Amica allora, e avevo definito vecchia, rispondendo a una lettera, una donna di 70 anni. Apriti cielo, scoppia l'inferno, mi arrivano non so quante lettere di protesta di le lettrici offese. Ah, ma come ti permetti di dire vecchia piuttosto di questo, piuttosto di quell'altro, e via dicendo. E io risposi con questa lettera, che era anche un augurio per il mio futuro, naturalmente. Cari amiche, la vostra visione della vecchiaia è abominevole ed è quella che il conformismo vuole. Mi rendo conto della forza del razzismo contro i vecchi proprio dalla violenza delle reazioni che provoca solo la parola vecchio. Non lo adopero come insulto. È certo una grande liberazione l'uso moderno per la donna di poter conservare bellezza, vivacità, civetteria, più la possibile nel tempo. E ci conto, però, finché non diventano prigione. Finché il linguaggio pubblicitario non ci condiziona al punto che vecchiaia non si nomina più. Come gli escrementi viene radiata dalle conversazioni e dalle coscienze. Beh, faccio una chiosa dei tempi moderni, oggi invece veramente il linguaggio in quel senso è diventato molto più disinvolto, voglio dire, quindi oggi gli escrementi vengono citati ogni secondo, la vecchiaia no, però la vecchiaia è rimasto un tabù sempre più forte. Il mercato sta ibernando l'età, tutti i consumi prevedono solo d'essere giovani o giovanili. Ricordo bene la crudeltà verso le donne quando ero bambina, ma anche dover essere asservite a un modello giovanile a tempo indeterminato è crudele. I palliativi della lingua, suggeriti dalle vostre lettere per evitare di nominare la vecchiaia, somigliano ai nomi che i razzisti danno alle loro vittime quando decidono di tollerarle. E intorno a tollerarle metto una cinquantina di virgolette, perché è la parola più intollerante che esista, la tolleranza, presuppone la superiorità di qualcuno che debba tollerare. Il modo per aggirare l'enigma del tempo non è negarlo, ma entrarvi dentro in pieno. In un solo giorno la persona sana, ovvero vicina un po', almeno un po' vicina alla natura, cambia età chissà quante volte. E se non vuole di prepotenza restare ancorata ad una in particolare, coverà una piccola eternità. Io voglio un giorno, non lontano, potermi chiamare vecchia, è infatti successo. Scrivevo, è un titolo prezioso e bisognerà meritarlo. Non intendo essere derelitti, ma riconoscere il colore delle proprie foglie. E da quanto sei nel terreno e che forma hanno impresso su di te le piogge e gli esseri. Voglio diventare una bella vecchia, con la certezza che non sarei mai infelice dell'infelicità che temevi da bambino. Non sarai mai un adulto senza fede. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.